se c'è nebbia intorno a noi, per vedere non si può, si fatica andare avanti e poi non capire che succede intorno a noi. Se l'inverno ci sarà, con il freddo arriverà, sarà il gelo e già la mente va nel ricordo di un'estate dentro noi. Corre via col tempo e tornerà con noi l'emozione di un momento, devi leggerla se puoi. Vince d'ombre della vita che accompagnano nel tempo gli anni tuoi. Il buio di un momento, dissolversi se vuoi. Nebbia vola via col vento, scende il chiaro dentro noi. Anche il sole oltre al buio c'è, per accendere quei sogni che tu vuoi. Se nel tempo volerà, la memoria cercherà ciò che è stato dentro allora, e noi ritrovarci in un momento quando vuoi. È un inverno che va via, primavera e poi sarà, il disgelo scioglie il cuore e poi il ritorno del sorriso e insieme noi. Ferma adesso il tempo, cogli l'attimo che vuoi, puoi rivivere il momento nel lasciarsi andare poi, senza nebbia sarà. Se vuoi un colore a dare vita agli anni tuoi, scenderà nel cuore portandoti con sé quella gioia di un momento, puoi riviverla se vuoi nella luce che il sole dà. Ogni amore non si perde con l'età, c'è un amore che ritorna ad ogni età, è l'amore sentimento senza età.